Capitolo 15. E se si sposassero? Ho sentito il dovere di venire, piccola cara, disse Miss Cornelia, e dare una spiegazione sulla telefonata che ho fatto. È stato tutto un errore. Mi dispiace così tanto. La cugina Sara non è morta, veramente. Anna, soffocando un sorriso, offrì a Miss Cornelia una sedia sulla veranda e Susan, alzando lo sguardo dal colletto di pizzo punto irlandese che stava facendo per sua nipote Gladys, proferì un cortese «Buonasera, Mrs. Marshall Elliot». La voce aveva attraversato l'ospedale durante la notte e ne era uscita nella mattinata, e io ho sentito il dovere di informarvi subito, dal momento che è una paziente del dottore. Ma era un'altra Sara Chase. La cugina Sara è viva e probabilmente vivrà, per fortuna. Qui è davvero piacevole e fresco, Anna. Lo dico sempre che se c'è un po' di brezza da qualche parte, questa è Ingleside. Susan e io ci stavamo godendo il fascino di questa sera stellata, disse Anna, mettendo da parte il coprivestito di mussola rosa che stava facendo per Nan e stringendo le mani sulle ginocchia. Una scusa per oziare un attimo, cosa che non era sgradita. Né lei né Susan avevano avuto molti momenti di ozio ultimamente. Erano in attesa del sorgere della luna e profetizzarlo era ancora più affascinante rispetto al fatto stesso. I gigli tigre risplendevano ardenti lungo la passeggiata e zaffate di caprifoglio andavano e venivano sulle ali di un vento sognante. Oh, guardate quell'onda di papaveri spuntati contro il muro del giardino, Miss Cornelia. Susan e io siamo veramente fiere di quei papaveri, anche se non c'entriamo niente con la loro comparsa. Walter ha versato lì un pacchettino di semi, per caso, in primavera, e questo è il risultato. Ogni anno c'è sempre una sorpresa simile a questa. Oh, io ho un debole per i papaveri, disse Miss Cornelia, anche se non durano a lungo. Vivono solo un giorno, ammise Anna. Ma in modo regale, che esistenza fantastica! Non è meglio che essere un'orribile, rigida zinnia che dura praticamente per sempre? Noi non abbiamo zinnie all'Ingleside, non siamo amici con chi è solo un fiore. Susan non ne vuole nemmeno parlare. Chi sta per essere ucciso nella conca? Chiese Miss Cornelia. In effetti i suoni che arrivavano sembravano indicare che qualcuno stesse per essere bruciato sul rogo, ma Anna e Susan ci avevano fatto l'abitudine e non se ne preoccupavano più. Persis e Kenneth sono stati qui tutto il giorno e concludono la giornata con un banchetto nella conca. Per quanto riguarda la signora Chase, Gilbert è andato in città questa mattina per sapere la verità su di lei. Sono contenta che lei stia bene, per tutti noi. Gli altri dottori non erano d'accordo con la diagnosi di Gilbert e lui era un po' preoccupato. Sara ci ha avvertiti prima di andare in ospedale che non dovevamo seppellirla a meno che non fossimo proprio sicuri che era morta, disse Miss Cornelia, sventagliandosi maestosamente e chiedendosi come la moglie del dottore riuscisse sempre a mantenere quel suo aspetto così fresco. Vedete, noi abbiamo sempre un po' di paura. Suo marito è stato sepolto vivo, aveva un aspetto così simile a un uomo vivo, ma nessuno pensava che lo fosse davvero finché non fu troppo tardi. Era un fratello di quella Richard Chase che ha acquistato la vecchia fattoria a Moorside e che vi si trasferì da Lowbridge in primavera. È un tipo strano, dice che è venuto in campagna per avere un po' di pace. A Lowbridge doveva passare tutto il suo tempo a nascondersi dalle vedove e dalle vecchie zitelle, avrebbe dovuto anche aggiungere Miss Cornelia, ma non lo fece per tatto nei confronti di Susan. Ho incontrato sua figlia Stella, viene alle prove del coro. Tra noi c'è una gradevole amicizia. Oh, Stella è una ragazza dolce. Una delle poche ragazze che sono ancora in grado di arrossire. Mi è sempre piaciuta molto. Sua madre ed io eravamo molto amiche. Povera Lisette. È morta giovane? Sì, quando Stella aveva solo 8 anni. Richard l'ha cresciuta da solo. È un miscredente, se è qualcosa. Dice che le donne sono importanti solo biologicamente. Qualunque cosa questo possa significare. Quando parla si vanta sempre come se dicesse chissà cosa. Non sembra aver fatto un cattivo lavoro allevandola, però, disse Anna, che considerava Stella Chase una delle più affascinanti ragazze che avesse mai incontrato. Oh, nessuno sarebbe stato in grado di rovinare Stella. Ammetto che Richard qualcosa nella testa ce l'ha, ma è un po' strambo quando si tratta di giovani ragazzi. Non ha mai permesso alla povera Stella di avere un singolo spasimante in tutta la sua vita. Tutti i giovani che hanno tentato di andare con lei li ha terrorizzati a forza di sarcasmo. È la persona più sarcastica che abbia mai sentito nominare. Stella non è in grado di controllarlo. Nemmeno sua madre prima di lei ci riusciva. Non sapevano come fare. Lui faceva sempre l'opposto di quanto era previsto, ma nessuno di loro sembrava mai rendersene conto. Ho l'impressione che Stella invece sia molto attaccata al padre. Oh, è così, lei lo adora. È un uomo molto piacevole se si fanno le cose a modo suo, ma dovrebbe avere più buon senso riguardo a un eventuale matrimonio di Stella. Deve sapere che non può vivere per sempre, anche se a sentirlo parlare si potrebbe pensare che lo supponga. Non è vecchio, naturalmente. Era molto giovane quando si è sposato, ma colpi apoplettici sono frequenti in quella famiglia. E che cosa farà Stella dopo che se ne sarà andato? Avvizzire, suppongo. Susan alzò lo sguardo dall'intricata rosa del suo punto irlandese, il tempo necessario per dire chiaramente: io non approvo che le persone anziane rovinino la vita dei giovani in questo modo. Forse, se Stella volesse veramente bene a qualcuno, le obiezioni di suo padre potrebbero non avere molto peso per lei. Ecco dove ti sbagli, Anna, tesoro mio piccolo. Stella non sposerà mai qualcuno che a suo padre non piaccia. E posso raccontarti di un'altra vita che sta per essere rovinata, il nipote di Marshall, Holden Churchill. Mary è determinata a non lasciarlo sposare finché lo può tenere. Lei è ancora più contraria di Richard. Se fosse una banderuola punterebbe a nord, quando il vento tira a sud. La proprietà è sua, finché Holden non si sarà sposato, poi passerebbe a lui, lo sai. Ogni volta che ha cominciato a corteggiare una ragazza, lei ha trovato il modo di porre fine alla cosa in qualche maniera. Davvero è tutta a causa sua, signora Marshall Elliot? Domandò Susan con fare distaccato. Alcune persone pensano che Holden sia molto volubile. Ho sentito che viene chiamato cascamorto. Holden è bello e sono le ragazze a inseguirlo, ribatté Miss Cornelia. Oh, io non lo biasimo per averle menate un po' per il naso e lasciate cadere dopo aver dato loro una lezione, ma ci sono state una o due belle ragazze che a lui piacevano molto e Mary ha fermato tutto ogni volta. Me l'ha detto lei stessa. Mi disse che va con la Bibbia. Lei è sempre andata con la Bibbia. Ogni volta incontra un versetto che è un avvertimento a che Holden non si sposi. Io non ho pazienza né con lei e né con quelle sue assurdità. Perché non va in chiesa e cerca di essere una creatura per bene come tutti noi nella zona di Four Winds? No, lei deve istituire per sé una religione che consiste in vado con la Bibbia. Lo scorso autunno, quando si ammalò quel prezioso cavallo, $400 di valore, invece di chiamare il veterinario di Lowbridge, lei vado con la Bibbia e incontrò il versetto. Il Signore dà e il Signore toglie. Sia benedetto il nome del Signore. E così non ha voluto chiamare il veterinario e il cavallo è morto. Immagina applicare quel versetto in tale maniera, Anna, piccolo tesoro mio. Io la chiamo irriverenza, gliel'ho detto in faccia, ma la sua risposta è stata solo uno sguardo sprezzante. E non vuole installare il telefono. Non ho nessuna intenzione di andare a parlare in una scatola nel muro, dice quando qualcuno tocca l'argomento. Miss Cornelia fece una pausa per riprendere fiato. Le stravaganze di sua cognata la spazientivano. Oh, Holden non è affatto come sua madre, dichiarò Anna. Holden è come suo padre, uno dei migliori uomini che ha mosso passo per quello che può fare un uomo. Perché mai ha sposato Mary? È una cosa che gli Elliot non avrebbero mai potuto capire. Anche se sono stati più che lieti di un matrimonio così riuscito, lei è sempre stata eccentrica, tipico di una ragazza alta e magra. Naturalmente aveva un sacco di soldi. Sua zia Maria le ha lasciato tutto. Ma questo non c'entra. George Churchill era davvero innamorato di lei. Io non so come Holden regga i capricci di sua madre, ma è stato un buon figlio. Sapete che cosa mi è appena venuto in mente, Miss Cornelia? Disse Anna con un sorriso birichino. Non sarebbe una bella cosa se Holden e Stella dovessero innamorarsi l'uno dell'altra? Ah, non ci sono molte possibilità. E non andrebbero da nessuna parte, anche se si innamorassero. Mary gli strapperebbe l'erba da sotto i piedi e Richard non impiegherebbe molto a mostrare la porta a un semplice contadino, anche se ora lui stesso fa il contadino. Ma Stella non è il tipo di ragazza che Holden immagina. Ama le ragazze sgargianti, dal riso facile. E Stella non gli presterebbe attenzione per il suo carattere. Ho sentito che il nuovo ministro di Lowbridge la guarda con occhi languidi. Non è piuttosto anemico e miope? E i suoi occhi sporgenti, disse Susan, deve essere terribile quando cerca di fare uno sguardo sentimentale. Beh, almeno lui è un presbiteriano, disse Miss Cornelia, come se quello lo discolpasse. Beh, ora devo andare. Trovo che se sto molto fuori con la rugiada, poi sono guai per la mia nevralgia. Vengo con te fino al cancello. Hai sempre l'aspetto di una regina con quel vestito, Anna, piccolo tesoro mio, disse Miss Cornelia con ammirazione, anche se non pertinente. Anna incontrò Owen e Leslie fuori dal cancello e li accompagnò nella veranda. Susan era scomparsa per andare a fare una limonata per il dottore, che era appena arrivato a casa, mentre i bambini stavano tornando, sciamando dalla conca, sonnati e felici. Stavate facendo un fracasso terribile mentre io arrivavo, disse Gilbert. L'intera popolazione deve avervi sentiti. Persis Ford, scuotendo indietro i folti riccioli color miele, gli mostrò la lingua. Persis era la preferita dallo zio Gil. Stavamo solo imitando gli urlanti dervisci, così naturalmente abbiamo dovuto urlare, spiegò Kenneth. Oh, guarda in che stato è la tua camicetta, disse Leslie con una certa severità. Sono caduto nella torta di fango di Dee, disse Kenneth con una decisa soddisfazione. Detestava quelle inamidate, immacolate camicette che la mamma gli faceva indossare quando arrivava al Glen. Cara mamma, disse Jem. Posso avere quelle vecchie piume di struzzo che sono in soffitta? Le devo cucire nella parte posteriore dei miei pantaloni per farci una coda. Domani faremo il circo e ho intenzione di essere uno struzzo. E stiamo cercando di costruire un elefante. Sai che costa $600 l'anno alimentare un elefante? Disse solennemente Gilbert. Ma un elefante immaginario non costa nulla, spiegò pazientemente Jem. Anna rise. Non abbiamo mai bisogno di fare economia nelle nostre immaginazioni, grazie al cielo. Walter non disse nulla, era un po' stanco e fu proprio contento di sedersi accanto alla mamma sui gradini e appoggiare la nera testolina contro la sua spalla. Leslie Ford, guardandolo, pensò che aveva il volto di un genio, il lontano, distaccato sguardo di un'anima che ci guarda da un'altra stella. La terra non era la sua dimora. Tutti erano molto felici in quel momento, dorato di una giornata altrettanto dorata. Una campana in una chiesa dall'altra parte del porto suonò leggermente, dolcemente. La luna faceva arabeschi sull'acqua. Le dune brillavano di un argento sfocato e c'era un penetrante sapore di menta nell'aria, eppure un po' indistinto quello delle rose, che era insopportabilmente dolce e fragrante. Anna guardava con aria sognante sul prato, con gli occhi che, a dispetto di 6 figli, erano ancora molto giovani, pensava che non ci fosse nulla al mondo così sottile ed elfico come un giovanissimo pioppo Lombardi al chiaro di luna. Poi cominciò a pensare a Stella Chase e Holden Churchill, fino a che Gilbert le offrì un soldo per i suoi pensieri. Sto pensando seriamente di provare ancora una volta ad organizzare un matrimonio, ribatté Anna. Gilbert guardò gli altri in preda ad una finta disperazione. Avevo paura che sarebbe scoppiata di nuovo un giorno. Ho fatto del mio meglio, ma non si può riformare una sensale di matrimoni per nascita. Ha una vera e propria passione per la cosa. Il numero di quelli organizzati è addirittura incredibile. Io non dormirei la notte se avessi tali responsabilità sulla mia coscienza. Oh, ma invece sono tutti contenti, protestò Anna. Io sono davvero esperta. Pensate a tutti i matrimoni che ho combinato o sono stata accusata di aver combinato. Theodora Dix e Speed Ludovic, Stephen Clark e Prissy Gardner, Janet Sweet e John Douglas, il professor Carter e Esme Taylor, Nora e Jim e Dovie e Jarvis. Oh, lo ammetto, questa mia moglie Owen non ha mai perso il suo senso della speranza. I cardi possono per lei produrre fichi in qualsiasi momento. Suppongo che continuerà a cercare di sposare la gente fino a che crescerà. Penso che abbia avuto qualcosa a che fare anche con un altro matrimonio, disse Owen sorridendo a sua moglie. Oh, non io, disse Anna prontamente. Incolpate Gilbert di questo. Io ho fatto del mio meglio per convincerlo a non eseguire quell'operazione su George Moore. A proposito di dormire e della notte, ci sono delle notti in cui mi sveglio sudando freddo perché ho sognato di riuscirci. Beh, si dice che chi combina matrimoni può essere solo una donna felice. Così, questa è una cosa a mio favore, disse Gilbert compiaciuto. Che nuove vittime hai in mente ora, Anna? Anna si limitò a sorridere. Combinare matrimoni è un mestiere che richiede sottigliezza e discrezione, e ci sono cose che una donna non racconta neanche al marito.